Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un rapporto molto forte e continuo nel tempo, quello tra la società italiana e il calcio, un rapporto che risale a molti anni fa e che si è mantenuto sempre assai saldo. Una ricostruzione della storia calcistica del paese, del rapporto appunto tra calcio e società, è il libro di Alfio Caruso, Un secolo azzurro, 100 anni d'Italia raccontati dalla Nazionale di Calcio, pubblicato da Longanesi, 590 pagine, 18,80 €. Battuta la punizione, cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. E il boato naturalmente ci introduce a quella che l'autore chiama la magia del calcio, una magia senza fine, la magia prodigiosamente che resiste da 60 anni, malgrado quanto avvenga sul terreno sia spesso la risultante di intrighi, scandali, eccessi. In Italia questa magia ha una data d'inizio precisa, il 5 maggio del 1910, quando all'Arena di Milano la neocostituita nazionale italiana, allenata allora da Umberto Meazza, batte la Francia per 6-2. Alla presenza di ben 4.000 spettatori. Di football si era cominciato a parlare alla fine dell'Ottocento, esattamente nel 1887, quando un commerciante torinese, Edoardo Bosio, aveva importato questo strano sport di cui si era innamorato dall'Inghilterra. Lo sport prende piede, suscita simpatie insospettabili, per esempio quella di Antonio Gramsci, che scriverà in questo modo, definendo il calcio un modello della società individualistica, vi si esercita l'iniziativa, ma essa è definita dalla legge. Il calcio nasce sotto l'egida delle squadre torinesi, fino a che viene fondato nel 1898 la Federazione Italiana Football, che organizzerà il primo campionato, un campionato che sarà giocato da appena 4 squadre, l'Internazionale, la Ginnastica, il Football Club, tutte e 3 di Torino, e poi il Genoa. E proprio quest'ultima squadra vincerà il primo scudetto tra le proteste di altre squadre che avevano organizzato fra di loro un altro campionato. Poi la federazione si trasferisce a Milano, nasce nel frattempo la Gazzetta dello Sport, che dà ulteriore spazio a questo sport, che però all'inizio della pubblicazione del giornale è tutt'altro che il più popolare. Cominciano a entrare gli oriundi che consentono al Milan di vincere nel 1906 e nel 1907, tanto da provocare il divieto di avere dei giocatori stranieri. E fu la vittoria proprio del 1910, quella contro sulla Francia, che cominciò a suscitare l'interesse dell'informazione. Da lì comincia una lunghissima storia di cui adesso parliamo con l'autore. Buonasera ad Alfio Caruso. Buonasera a lei. Alfio Caruso, lei parla nel suo libro del rapporto in particolare tra il pallone, tra il calcio e la società, la realtà, la politica anche italiana. Ecco, questo rapporto è un rapporto particolare nel nostro paese o ha le stesse caratteristiche di tutti gli altri paesi, diciamo, europei? No, è unico. Io credo che la sintesi di questo rapporto e anche la sintesi del libro è la frase di Churchill che si trova nella quarta di copertina, quando l'ex primo ministro britannico osserva che gli italiani vanno alla guerra come se fosse una partita di calcio e vanno alla partita di calcio come se fosse una guerra. E gentilmente Churchill aggiunge che il motivo per cui gli italiani gli piacciono, però è anche la spia di un rapporto molto contorto e complicato. Ecco, rimaniamo proprio agli anni di Churchill per approfondire questo rapporto anche con la politica. Lei descrive gli anni e le vittorie mondiali del 34 e del 38 e scrive a un certo punto che la vittoria del 38 per il regime fu una boccata d'ossigeno. In che senso? Ma io riporto una testimonianza di Eraldo Monzeglio, che fu il terzino sinistro del mondiale vinto nel 34 e nel mondiale vinto nel 38 giocò la prima partita contro la Norvegia, poi non giocò più, ma figurava ovviamente nella rosa. Monzeglio era intimo della famiglia Mussolini perché molto amico di Bruno e di Vittorio e soprattutto era l'abituale sparring partner di Mussolini al tennis, perché a Villa Torlonia, dove i Mussolini abitavano, era stato fatto costruire un campetto da tennis e Monzeglio, che giocava molto bene a tennis, però riusciva a perdere contro il Duce accanite partite, e ovviamente era, lui ci raccontò quella volta che io accompagnai Giovanni Arpino per un'intervista rievocativa, perché avevamo intorno al 78 del mondiale vinto 40 anni prima appunto in Francia, raccontò con un filo di ironia che era molto più faticoso perdere con il Duce che vincere, proprio perché, a sentire Monzeglio, Mussolini era negato al tennis. Quindi Monzeglio fu per diversi anni un testimone oculare estremamente attendibile, direi quasi unico nel suo genere, e ci raccontò quella volta che subito dopo il mondiale vinto in mezzo a notevoli difficoltà dall'Italia in Francia, il Duce durante una di queste partite a tennis disse a Monzeglio che quel successo era la dimostrazione di come il fascismo avesse migliorato la razza italiana, di come la gioventù italiana allevata dal fascismo avesse toccato vette impensabili e di come bisognasse preservarla e salvaguardarla da contaminazioni razziali. E quindi, secondo Monzeglio, facilmente deducibile peraltro, quella affermazione della nazionale in Francia dette lo spunto a Mussolini di qualcosa che evidentemente già covava, ma che trovò una espressione compiuta potendosi basare su un successo che aveva inorgoglito tutto il paese. Ecco, in questo rapporto con la società italiana, che appunto è così unico e costante nel tempo, che cosa ha rappresentato il cambiamento dei mezzi di comunicazione? I mezzi con lo sport, soprattutto con il calcio, hanno avuto una libertà che non hanno avuto in tanti altri settori, ma d'altronde era anche lo specchio della libertà che persino sotto il fascismo gran parte dell'opinione pubblica conservava nei confronti del calcio. Nel libro ho raccontato di quando nel 1930 7.000 napoletani presero il treno per andare a Roma per fischiare l'esordio in maglia azzurra di Meazza, cioè stiamo parlando quasi dell'equivalente di Pelé, perché portava via il posto a un idolo del Napoli che era un centravanti di origine paraguayana, che era Attila Sallustro. Quindi era una manifestazione inimmaginabile in qualsiasi altro settore durante l'epoca fascista. E quindi c'è stata una certa libertà da parte dei mezzi di informazione nei confronti del calcio, però dall'altro lato c'è stato anche l'accentuare di un fenomeno che ha assunto un'importanza perfino sproporzionata. La conseguenza qual è? Che oggi l'Italia è l'unico paese nel mondo civilizzato dove esiste ancora la violenza dentro gli stadi o fuori degli stadi, comunque la violenza nel nome del calcio. Questo è un fenomeno unico al mondo. Ed è un fenomeno che si può superare, a suo parere? Beh, per superarlo, per esempio, non bisognerebbe cambiare su due piedi la legge contro gli insulti territoriali, come è avvenuto adesso dopo che gli effetti di questa legge avrebbero toccato il Milan, perché noi siamo bravissimi nel varare delle leggi sotto la sferza, sotto la spinta dell'episodio, per tenere a bada questi violenti, ma sei mesi dopo siamo altrettanto bravi, diciamo così, nell'attutire o se non cancellare gli effetti di questo rigore. È il classico cane che si morde la coda, voglio dire, è l'ennesima rappresentazione dell'immaturità di un popolo. Siete, torniamo alla storia. Parlando negli anni 50 dell'ambiente calcistico italiano, lei parla di un'allegra spregiudicatezza. Ecco, questo carattere poi rimane? Sì, sotto certi aspetti si accentua, anche perché cresce enormemente l'importanza dei soldi in ballo, perché poi tutto lì si riduce. Quindi si passa dalle decine di milioni degli anni 50 alle decine di milioni di euro, se non di più, dei nostri tempi. E questa spregiudicatezza non è soltanto una spregiudicatezza affaristica, ma è anche una spregiudicatezza di comportamenti che si riflettono sull'esito delle partite. Voglio dire, fin troppi campionati, secondo me, il libro ne parla in abbondanza, sono stati decisi al di là dei meriti effettivi maturati su un campo di calcio. E infatti lei a un certo punto parla anche della questione appunto dei bilanci, delle finanze delle squadre. Sì, ma sa, lei consideri, e questo secondo me ci dà anche un po' il clima, che non è cambiato, perché se nel 53 dopo il successo dell'Ungheria contro l'Italia all'Olimpico, era l'inaugurazione dell'Olimpico, aveva assistito alla partita persino Luigi Einaudi, al quale un'ora prima avevano spiegato che il pallone era rotondo, però non poteva esimersi come Presidente della Repubblica di assistere all'inaugurazione del più importante impianto italiano. Dicevo, il 3-0 che l'Ungheria rifila a un'Italia male assortita e peggio ancora disposta sul campo, offre il destro al segretario del Partito Comunista Togliatti. Eravamo alla vigilia delle elezioni, quelle contro la famosa legge truffa, per noi che abbiamo i capelli bianchi è una data simbolo, diciamo un'elezione in cui per la prima volta si profilava il premio di maggioranza se un partito avesse toccato la quota coi suoi alleati del 50,1%, e De Gasperi quella quota la fallì per pochissimo. Dicevo, Togliatti fece gli ultimi giorni della campagna politica dicendo che la supremazia del sistema socialista sul sistema capitalista faceva sì che l'Ungheria potesse vincere 3-0 a Roma contro l'Italia, e che se quindi gli italiani avrebbero voluto vedere una squadra competere con l'Ungheria, o comunque essere brava come l'Ungheria, bisognava votare il Partito Comunista Italiano. Non è differente dalla campagna che nel 94 porterà Berlusconi a vincere le elezioni, perché è una tesi del libro: non sono le televisioni a favorire il lancio di Berlusconi, uomo pubblico, ma sono i successi del Milan, perché i successi del Milan gli consentono di parlare con simpatia sia con quelli di destra che con quelli di sinistra. Bertinotti, che all'epoca era il segretario del partito più a sinistra dello schieramento di Fondazione Comunista, era un accanito tifoso del Milan, ma ce n'erano tanti. Il passepartout per Berlusconi e il Milan, sono le vittorie del Milan, sono gli scudetti del Milan, le Champions League, le coppe intercontinentali. Siamo quindi all'uso politico del pallone, lo stesso che unisce Togliatti a Berlusconi e prima a Mussolini, perché è Mussolini regista del successo italiano nel 1934, quando Mussolini impone ciò che poi non si sarebbe mai più verificato, cioè dire lo stesso arbitro per la semifinale e la finale dell'Italia, e l'arbitro era uno svedese, Eklund, iscritto al partito fascista svedese. E prima della finale che si giocava all'attuale Flaminio, che allora si chiamava Stadio del Partito Nazionale Fascista, c'è una foto che in Italia non si vede ma sui siti stranieri si può trovare con facilità, dove si vede Eklund fare il saluto fascista rivolto a Mussolini in tribuna d'onore. Grazie ad Alfio Caruso, autore di Un secolo azzurro. Buona grazie serata. Un curioso spaccato dell'Italia è il libro curato da Vicola Canneri, che si intitola Cronache vere, souvenir d'Italia, pubblicato da Piano B, 184 pagine, 14 euro. Il titolo prende spunto dal testata del settimanale molto popolare Cronaca Vera. La voce, scrive il libro, che parla un'Italia del tempo perso e del tempo da perdere. È un settimanale che, nonostante la snobistica ripulsa da parte dei giornalisti veri, ebbe un successo clamoroso, facendo leva su pochi elementi che così vengono definiti: il mix di colore bianco e nero, prezzo stracciato, corpi femminili discinti, articoli brevi, grafica d'impatto, scrittura uniformata e scorrevole come olio. Un'alchimia, aggiunge il libro, capace di essere pruriginosa in un'Italia che consumava ogni possibile rivoluzione sessuale, scandalistica in un decennio che dissacrava la moralità borghese, occultamente conformista in materia di omosessualità in un tempo che assisteva all'organizzarsi del primo movimento gay. Questo libro contiene una sorta di gioco, è stato affidato infatti a 15 autori il compito di affrontare un tema vero, autentico, trasformandolo però in una loro narrazione col condimento tradizionale di sangue e di sesso, e dando vita a una serie di personaggi così descritti dal curatore. Vittime immuni alle grandi passioni e carnefici senza grandezza, i protagonisti di questi racconti stanno fuori dalla storia che semplicemente li schifa. Loro ricambiano cordialmente o forse nemmeno se ne curano. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto un interessante confronto tra padre e figlio, quello tra Giovanni e Nicola Valentini. Il primo è un giornalista famoso di Repubblica, il secondo un ingegnere manager, che hanno scritto insieme Voto di scontro, è pubblicato da Longanesi, 128 pagine, 12,90 €. Il libro, prefatto da Stefano Rodotà, nasce dalla sorpresa del padre, il classico elettore di sinistra, nello scoprire che il figlio è un militante, come lo definisce lui, al limite dell'indottrinamento, del fanatismo, del movimento di Beppe Grillo. E parla qui nel libro soprattutto il figlio, con uno sfogo finale nel quale egli se la prende soprattutto con i parlamentari del Movimento 5 Stelle, ai quali dice queste parole Valentini Junior: ora toccherebbe a voi, siete voi deputati, senatori, eletti o come volete chiamarvi 5 Stelle, dovreste fare in modo che quelle stelle si vedano nel cielo pure di giorno, invece le state facendo diventare 5 stelline. Una trasposizione a fumetti di un enorme successo è il libro Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson, di cui Sylvain Ramberg e José Homs, il primo francese e il secondo spagnolo, ricavano il primo volume a fumetto pubblicato da Rizzoli Lisard, 128 pagine, 15 €. E infine un giallo in forma tradizionale, quello del serbo Zoran Zivkovic, ne abbiamo già parlato in questa trasmissione, l'inventore del personaggio del commissario Lukic, appassionato di libri. Questo si intitola Il grande manoscritto, pubblicato da Tea, 266 pagine, 13 €. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, ci spostiamo adesso oltre Manica e cominciamo con un romanzo di una delle scrittrici più popolari nel suo paese, Margaret Drabble, che è considerata una guida infallibile per capire la società inglese. Della Drabble viene pubblicato in Italia Voliera estiva da Astoria, 240 pagine, 17 € con la traduzione di Marina Morpurgo. Il romanzo presenta due sorelle, Louise e Sara, la prima bella, corteggiatissima, la seconda particolarmente spiritosa, meno brillante forse della sorella. La prima vuole sistemarsi, come si diceva una volta, e sposa un antipaticissimo ma benestante scrittore. La seconda conclude gli studi, si trasferisce a Londra per trovare un modesto impiego alla BBC, e quando le due sorelle si ritroveranno dopo il lunghissimo e sontuoso viaggio di nozze della prima, la seconda scoprirà che il matrimonio è già in crisi e allora ripensa alle proprie prospettive, per le quali si affidava anch'ella a una soluzione simile, quella del matrimonio. E abbiamo nel libro della Drabble l'affresco di un mondo che sta cambiando. Siamo infatti nella Gran Bretagna degli anni 60, quindi un cambiamento precipitoso che presenta lo scontro tra una società mondana, scintillante, e una vita allora assai sobria e modesta, soprattutto a Londra, ma condito da grandi ambizioni sentimentali. Sentiamo un eco di questa dialettica nel sentimento col quale Sara si presenta a una festa elegante organizzata dalla sorella Louise. Di essere in grado di descrivere come fosse il ricevimento. Dovrebbe essere facile perché nella mia mente è tutto molto nitido. Riesco a visualizzare la maggior parte dei vestiti indossati dalle donne e come portavano i capelli e questo genere di cose. Riesco a ricordare come la gente parlava, in un certo senso, ed ero in grado di capire chi era una persona di successo e chi no, e chi era intelligente e chi non lo era. Ma nell'aria c'era qualcosa che mi sfuggiva. Era quasi come vivere in un paese straniero, dove le distinzioni sono per un verso più chiare e vivaci e per un altro strane e molto difficili da valutare. Penso che quel qualcosa nell'aria fosse una sorta di mondanità alla quale non ero avvezza e nella quale non ero introdotta, anche se da tempo ne conoscevo l'esistenza. Per dirla in modo più semplice, socialmente, ero un pesce fuor d'acqua. Un'altra figura femminile particolarmente interessante come testimone della società inglese fu Emily Caroline Craig, che fu un'esploratrice, anzi la prima donna esploratrice. Era nata su una nave inglese nel Golfo del Bengala nel 1860, il padre era ufficiale, dunque costretto a raggiungere le guarnigioni inglesi in tutte le parti del mondo. Caroline va in India, poi torna in Inghilterra, da lì la famiglia si trasferirà appunto in Australia. In quel continente L'autrice conduce la sua impresa, che la porta a essere la prima donna a esplorare una delle zone più difficili di quel continente. Fu un'impresa difficilissima e i partecipanti a questa spedizione rischiarono più volte la vita anche per la mancanza di acqua e di cibo. E di questa impresa La vita è felice ci offre il diario. Quella spedizione è del 1883, il libro si intitola Il diario di Emily Caroline Craig, esploratrice. È pubblicato appunto da Vita Felice in una nuova collana che si intitola I libri di Fata Morgana, dedicata ai libri delle donne viaggiatrici. È una collana diretta da Anna Banfi, 160 pagine, 14,50 euro, curato dalla stessa Banfi. Il significato della spedizione è spiegato nel libro da uno storico australiano, Peter Monteith, che scrive come questo diario sia molto di più di un resoconto e la testimonianza di ciò che è stata l'esplorazione di quei territori australiani rimasti così a lungo ignoti agli europei, e soprattutto è la testimonianza redatta dall'insolita prospettiva di una donna con un particolare talento letterario nel descrivere le immense difficoltà di ogni giorno. Continuiamo con libri di viaggio e di esplorazione con Peter Fleming, l'autore vissuto tra il 1907 e il 1971, un grande esploratore inglese, lavorò anche per i servizi segreti del suo paese ed era il fratello maggiore di Ian, l'autore di James Bond, il quale ultimo delineò il personaggio di 007 proprio seguendo i tratti assai raffinati e imprevedibili dell'allora assai più celebre fratello Peter. Allora, questo libro si intitola Avventura brasiliana, è pubblicata da Nutrimenti, 476 pagine, 22 euro, tradotto da Francesca Valente. Il testo è assai sdrammatizzante. Fleming partì 24enne nel 1932 rispondendo a un'inserzione sul Times che cercava partecipanti a una spedizione in nel Brasile centrale per ricercare un colonnello Fawcett di cui si erano perse le tracce. La spedizione fu più spassosa che pericolosa e lo ammette lo stesso autore scrivendo: abbiamo sopportato avversità e privazioni di entità molto ridotta e corso pericoli assai meno gravi di quelli che ci riserva una comune arteria stradale durante un'ondata di calore. Se in una qualsiasi parte di questo libro ho dato l'impressione del contrario, l'ho fatto senza volerlo. Non conclusero nulla perché il colonnello non venne ritrovato, ma il libro che ne risulta è interessante e divertente. Curioso nel libro anche l'uso di citazioni shakespeariane, come ci ricorda la traduttrice. Insomma, si tratta di un'opera condita di ironia che sembra nella conclusione anticipare un'avventura dello stesso Bond, con una corsa tra i partecipanti che intanto hanno litigato fra di loro per arrivare primi in Inghilterra e comunicare che il colonnello non è stato ritrovato e che insomma la spedizione si è rivelata del tutto inutile. Un grande classico della letteratura di viaggio naturalmente è Bruce Chatwin, il grande scrittore di cui Adelphi pubblica Una scelta delle lettere, l'alternativa nomade, 1948-1989, 496 pagine, 26 euro, tradotta da Maria Grazia Gini. Si parte da Chatwin bambino di 8 anni per poi seguire le sue traversie. In particolare l'autore nel 66 lasciò un lavoro invidiabile in una grande casa d'asta e questo suscitò la sorpresa di tutti i suoi conoscenti. Si iscrisse ad archeologia fino a che maturò la scelta di dare corso alla propria passione, allo studio del nomadismo e a farsi lui stesso nomade per sfuggire a un mondo di cui così anticipa l'evoluzione prendendo spunto dalle righe del grande Marshall McLuhan. McLuhan analizza in buona parte correttamente gli effetti dei nuovi media. Non sembra valutare le loro probabili conseguenze di lungo periodo. È da presumere che esse siano piuttosto scomode. Può darsi bensì che oggi il vecchio sogno nostalgico di una libera società senza classi sia realizzabile, ma siamo in troppi e occorrerebbe un drastico calo della popolazione. Gran parte della popolazione mondiale è in movimento come mai in passato. Turisti, uomini d'affari, manodopera itinerante, sbandati, attivisti politici, eccetera. Al pari dei nomadi che per la prima volta montarono a cavallo, abbiamo di nuovo i mezzi per una mobilità totale. Come sa chiunque possieda una casa, spesso è meno costoso andare che stare. Ma questo nuovo internazionalismo ha attivato un nuovo provincialismo. Il separatismo dilaga, le minoranze si sentono minacciate, piccoli gruppi esclusivi si staccano come schegge. Esplorazioni impossibili sono invece quelle di cui ci parla uno scrittore americano famosissimo, Edgar Allan Poe, nel libro I viaggi immaginari, esplorazioni stravaganti e impossibili in giro per questo e altri mondi, pubblicato da Gargoyle, 330 pagine, 17 euro, curato da Alessandro Gebbia. Sono racconti meno noti del grande scrittore americano, scritti dal 1833 al 1849, che narrano di viaggi fantastici ambientati spesso in ambienti storici lontani come lo Gerusalemme ai tempi dei Romani o più vicini all'autore come la Venezia a lui contemporanea, che però assume dei tratti quasi fiabeschi. E a questo punto... Il confettino... ci porta in terre e civiltà lontane nelle quali ci siamo avventurati in questa parte della trasmissione uno dei grandi classici della civiltà mondiale, scritto 1500 anni prima di Omero, cioè l'epopea del Gilgamesh, adattata da Alessandra Grimaldi e illustrata da Lori Eli e Farah Rayani per l'Asino d'Oro, 66 pagine, 20 euro. Nel libro si trova anche il collegamento al sito, nel quale da un codice che è contenuto nel libro stesso si può ascoltare la versione audio letta da Francesco Pannofino. Prima di salutarci ricordo che giovedì 7 novembre ricorre il centenario della nascita di un grande, grandissimo scrittore del Novecento, Albert Camus, premio Nobel per la letteratura nel 1957, che morì poi il 4 gennaio del 1960 in un incidente stradale. E su quell'incidente torna il libro che adesso vi presento, è il libro di uno scrittore molto esperto di cose dei paesi dell'est, e cioè Giovanni Catelli. Il libro si intitola Camus deve morire, nutrimenti, 160 pagine, 13 euro. Si tratta di un'appassionante ricostruzione della scomparsa del grande scrittore, che in realtà potrebbe essere stata tutt'altro che casuale. Camus, ci ricorda l'autore, era un uomo libero, indomabile, pericoloso, e a molti, aggiunge, ha giovato la sua morte. Ai nazionalisti francesi, agli estremisti algerini, alle forze reazionarie, agli stalinisti, all'Unione Sovietica, alla dittatura fascista spagnola. Partendo da un accenno contenuto nel libro di un traduttore cieco dissidente, Jan Zabrana, l'autore ricostruisce quello che potrebbe essere successo. Il cieco aveva accennato nel suo libro a quanto gli aveva rivelato una fonte anonima, secondo la quale in realtà l'incidente stradale in cui nel 1960 è morto Camus è stato organizzato dallo spionaggio sovietico. I motivi dell'attentato sarebbero stati soprattutto il forte dissenso che aveva manifestato Camus, che in gioventù era stato iscritto al Partito Comunista, nei confronti dell'intervento sovietico in Ungheria, per il quale lo scrittore se la prese soprattutto con il ministro degli esteri sovietico Shepilov, in particolare in un memorabile discorso che tenne a Parigi il 15 marzo del 57. Non solo, Camus si era molto dato da fare perché gli succedesse, per così dire, al premio Nobel e riuscì nell'impresa Boris Pasternak, che infatti nel 1958 venne insignito con il premio, e anche questo naturalmente non mancò di innervosire le autorità sovietiche. Il libro è suggestivo non solo per la capacità di ricostruire il complotto, l'ipotetico complotto, attraverso tanti testimoni insospettabili, ma anche per lo spazio attribuito allo stesso Camus, del quale rileggiamo alcune righe esemplari, per esempio quanto disse appunto il 15 marzo del 57, segnando, secondo la tesi del possibile attentato, la propria condanna a morte. Disse allora Camus: la verità è che c'è posto per tutto tra noi, anche per il male e anche per gli scrittori di Shepilov, ma anche per l'onore, per la vita libera del desiderio, per l'avventura dell'intelligenza. Mentre non c'è posto per nulla nella cultura staliniana, se non per le prediche di raccomandazione, la vita grigia e il catechismo della propaganda. E in Francia è uscito il volume di corrispondenze tra Albert Camus e il suo grande amico Louis Guyou, che era uno scrittore francese, anche egli ex comunista, poi uscito dal partito. Il volume è pubblicato da Gallimard, che è l'editore, che era morto nell'incidente d'auto di Camus, 252 pagine, 18,50 euro, si intitola Correspondance. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione e Gianmarco Ferronati in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.